buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Qualche piccolo problemino in partenza con la sigla, ma fa bene perché così ci siamo anche un po' immedesimati nella notte piovosa di Bologna. Finalmente siamo ritornati in duo, non usiamo più i termini vecchi, desueti, anche perché non ma perché sono... duo è nuovo, non ho mica capito. No, collettivo usavo, però sì, è un po' riduttivo per il duo, insomma. Sì, riduttivo. Soprattutto sì, perché siamo di più. 451 frammenti sonori rientra come duopo la domenica notte dopo il buon Jerry che ci ha accompagnato con la sua ottima e splendida trasmissione. Oltretutto possiamo già diciamo forse preannunciare, no, forse lo facciamo, no? Lo preannunciamo? Beh, certo, ce l'abbiamo anche sicuri? Qua Jerry, quindi. Ce l'abbiamo dietro che ci sta osservando. Faremo una puntata speciale, insomma, tranne particolari inconvenienti che possono sempre capire. Perché non ho capito che forse tranne particolari inconvenienti. Ma che non si sa mai, scusa, che ne sa? Ecco, ecco, Jerry, si sente anche Jerry in cantina che è qua sotto. Che non ci ti sta. Preoccupare, no, allora, non avere ansia. Dillo tu. Io non... Ah, non ti prendi proprio la responsabilità. No, perché dopo io poi faccio le figure. No, il 13 maggio faremo uno specialone dedicato al kraut. Stavamo già ragionando su come impostare la faccenda, probabilmente una parte più rock, una parte invece più elettronica, con ovviamente rimandi anche a giovani che si rifanno a quella grande esperienza degli anni 70 tedesca, e non solo, forse avremo modo anche di andare fuori dalla terra germanica. E insieme a 451, quindi a Eliseo Scarpa, Max Macchia, Jerry, ci sarà anche Gino Dal Soler e DJ Tetro, quindi facciamo insomma quattro, speriamo di non fare insomma un po' troppo quattro galli in un pollaio. Jerry, che dici? No, siamo in cinque, dai. In cinque, ah, addirittura ci contavo anche male. Contato anche male, forse volevi eliminare qualcuno. No, vabbè, è una cosa inconscia. In quattro ore e mezzo penso che non ci pesteremo i piedi. No, infatti, siamo tranquilli, abbiamo tempo per divertirsi, fare tanto è meglio. E noi invece stasera affrontiamo un tema che abbiamo già affrontato in alcune trasmissioni del passato: il rumore come centro vitale anche degli ultimi anni di trasmissione, ma non solo, anche nel passato l'abbiamo sempre considerato come diciamo suono e ricerca musicale piuttosto interessante per quanto riguarda il nostro bacino, il nostro percorso di sperimentazione. Rumore che abbiamo voluto declinare con il titolo L'arte del rumore, affrontando il tema rumorista in tutte le sue accezioni. Ovviamente una puntata piuttosto limitata e riduttiva per affrontare un tema così vasto, sicuramente ci ritorneremo sopra come abbiamo fatto già nel passato, e apriamo con un grande lavoro musicale che adesso Max affronterà, anche molto articolato e complesso, che cercheremo di affrontare in pochi minuti di presentazione. Sì, beh, l'arte del rumore chiaramente il riferimento è proprio a lui, a Luigi Russolo. Non è una puntata strettamente dedicata al futurismo, ne abbiamo fatte proprio durante il centenario, peccato che non lo potete sentire sul blog, poi prima o poi magari cercheremo di recuperare anche questa arte effimera, forse sì. Per un momento ci siamo dedicati appunto così a un'istantanea anche appassionata sul movimento futurista e soprattutto su quel rumore che da loro parte come arte del rumore, appunto, ma come combinazione, come possibilità anche sociale, politica, con tutto che poi faremo anche insomma un po' di distinguo rispetto al primo periodo futurista e quello secondo, rispetto al futurismo italiano, quello internazionale, soprattutto quello russo, ma saranno accenni appunto, perché da Luigi Russolo e da quel manifesto che fu incredibilmente ricco di intuizioni e di programmaticità, che è stata seguita da Musique Concrète a Parigi con Schaffer e Henry, fino ad arrivare alla wave più radicale, all'industrial, e ai nostri giorni con la riapertura insomma del nuovo noise americano e a tante veramente rivoli anche sull'elettronica insomma digitale. C'era già una sorta di sogno computeristico già non dentro il manifesto dell'arte l'arte dei rumori, ma nei manifesti successivi, appunto, dedicati alla musica futurista. E musica futurista, appunto, è il titolo di questo cofanetto di 8 CD della Cramps. Dopo ci torneremo su e spieghiamo anche un'operazione storica che fece la Cramps alla fine degli anni 70, anche piuttosto polemica. Vabbè, non ci dilunghiamo perché sennò veramente qua la presentazione prende mezz'ora. Andiamo con Daniele Lombardi. Metropolis è il secondo CD, appunto, di questo splendido cofanetto. Andiamo a sentire Gorgogliatore Remix, appunto, un omaggio accorato a Russolo, in questo caso, con intorno a rumori costruiti e computer music che va a assemblare quello che è, appunto, l'arte dei rumori, per iniziare 451 frammenti sonori. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro. Infatti mi applaudono, vedi, non a caso. In effetti, vedi, sembra una presentazione uno ufficiale, scherzo futurista. No? È uno scherzo futurista, infatti. Grande composizione quest'ultima che abbiamo ascoltato. Prima abbiamo avuto il piacere, forse anche per certi versi l'onore, di mandare in onda uno splendido, splendida rivisitazione del Gorgogliatore remix, in questo caso del grande Daniele Lombardi, che oltre a essere un importante compositore e pianista italiano è anche il curatore della storica, direi ormai, compilazione raccolta di musica futurista della Cramps, uscita nel 1980, se non erro, sì, 80. E che appunto Max precedentemente nella presentazione iniziale della puntata di stasera aveva già presentato, scusate il gioco di parole, come una compilazione che aveva scatenato tutta una serie di discussioni, di polemiche connesse a tutto il percorso e la corrente futurista, che insomma è sempre stata soggetta a parecchie disquisizioni, polemiche, contestazioni anche nell'ambito della cosiddetta sinistra, tra virgolette, che noi, penso Max sia d'accordo con me, definiremo anche ottusa su questo piano, anche perché il futurismo è stata una cosa molto complessa e non può essere catalogabile soltanto su una parentesi politica piena di contraddizioni, ma adesso non ci vogliamo infilare in questo ginepraio. Su un periodo, no, vabbè, ma poi col periodo si riesce a capire. Fino più o meno al 24 c'è avanguardia e poi dopo c'è una sorta di sopravvivenza con anche un retrofront rispetto a quello che appunto erano i primi discorsi, ma d'altronde le avanguardie infinite non esistono, è un controsenso in essere, quindi non può essere, insomma, scusate il gioco. Giochi ne troveremo parecchi stasera, in particolare in questa prima parte. Abbiamo ascoltato appunto da questo splendido cofanetto uscito nel 2007 di Musica Futurista 2 di Daniele Lombardi, appunto parlavamo di Daniele Lombardi, che appunto in questa opera che abbiamo mandato in onda inizio trasmissione, poi collegata alla seconda composizione che abbiamo orora ascoltato, costruita e realizzata da un grande altro compositore italiano, Silvano Bussotti, che è andato appunto a ritrovare il grande Russolo, anche perché questo CD in particolare è il quinto CD di questa collezione di 8 album, è appunto dedicata a Russolo e si intitola Viva Russolo, un grande compositore, un grande sperimentatore appunto del periodo futurista, che viene rivisitato appunto da Bussotti con Variazione Russolo, Slancio d'angoli a pianoforte integrale con archi, rumori e semantiche voci. Uno splendido lavoro sia dal punto di vista proprio compositivo, estremamente complesso, variegato, ma anche dal punto di vista sonoro, dove il rumore assurge una forma assolutamente primaria nel sviluppo compositivo e riesce a articolarlo su vari piani rumoristici estremamente complessi e estremamente anche architettonici quasi all'interno della struttura compositiva. Geniale assolutamente, tenendo conto poi oltretutto che la composizione del 2007 praticamente segna anche la sua età, che è di 76 anni, e questo è incredibile all'epoca della composizione del 31 Bussotti, che insomma ha una storia piuttosto importante nell'ambito della composizione italiana, internazionale. È stato ha composto delle opere estremamente complesse nell'ambito della contemporanea e non solo, è stato anche direttore artistico di teatri molto importanti, curatore anche di sviluppi accademici all'interno di varie fondazioni americane, tedesche, inglesi, insomma un compositore affermato anche dal punto di vista accademico, tra virgolette. Tra l'altro nasce come autodidatta, questa è la cosa incredibile di Bussotti. Aveva studiato inizialmente negli anni prima della guerra, poi con la guerra non prese nessun diploma, non concluse gli studi, formalmente chiaramente, ma li portò avanti poi successivamente nel dopoguerra come autodidatta. E sviluppato appunto una soprattutto ricerca. Insomma ad Amsterdam questo caos con Cage Stockhausen e Cage sono diciamo gli incontri fondamentali, ma poi ha collaborato e ha lavorato anche con David Tudor che vabbè era strettissimo collaboratore anche di John Cage, ma con tantissimi altri compositori della musica contemporanea ed elettronica, dunque nella sperimentazione assolutamente dentro questo percorso e dentro anche questa ricerca, riprendendo Russolo e ricostruendolo diciamo a distanza quasi di 70 anni, 80 anni, per cui molto importante anche questo lavoro. E da questo altro cofanetto che abbiamo presentato di musica futurista 2 andiamo invece a trovare, perché è la prima volta che mandiamo in onda un altro importante autore. La vivenza, sì, in realtà poi fu messo un po' in quella puntata dedicata al centenario del futurismo. Ah, vedi, allora avevo ragione che l'avevamo messa, sì, mi era venuto il dubbio. Vivenza, compositore francese che da sempre probabilmente all'inizio anche un po' così volutamente incluso dentro il fenomeno e la scena industrial, d'altronde per certi aspetti lo è anche stato, però molto più interessato al futurismo e proprio al concetto di rumore elaborato da Russolo, anche lui un po' come ha fatto la Cramps negli anni Ottanta, si va proprio a tirare fuori le carte di Russolo, va a studiarle e soprattutto scopre, come d'altronde poi ha ascoltato, e abbiamo anche un altro pezzo preso proprio dall'opera di Russolo, scopre che il discorso poi della combinazione dell'arte del rumore inaugurata da Russolo prevede anche una stratificazione che è molto interessante proprio per quello che saranno gli sviluppi delle musiche insomma elettroniche odierne, ovvero non più una verticalità nella composizione ma un'orizzontalità. Prima Eliseo parlava di un'architettura, ecco, un'architettura appunto che va per strati e questi strati vanno anche tante volte a incastrarsi anche orizzontalmente, e questa è una possibilità data da Russolo proponendo la faccenda non più su il canone ma appunto creandola in armonia, quindi anche rompendo quello che non soltanto in termini politici estetici significhi pianto canonico dell'Ottocento primo Novecento, ma anche proprio le possibilità poi date dall'anarmonia, quindi dall'utilizzo del rumore, una possibilità orizzontale appunto, non più soltanto verticale di composizione, se riusciamo a farci capire usando insomma da in questo caso cos'è la geometria, sì. La geometria, la matematica sì, infatti è una matematica liberata in effetti da anche dai vincoli appunto troppo imposti a volte. E con Vivenza si va addirittura a un periodo piuttosto particolare del futurismo musicale, quella forse l'ultimo grande momento della vitalità futurista schiacciata appunto durante il ventennio fascista. Beh, fascista. Proprio, che terra anche vabbè, terra un po' contraddittoria, infatti all'epoca decisamente fascista vabbè, sì, qualche rimasuglio qualche vecchietto è rimasto vabbè, ma tralasciando insomma personaggi che potete trovare anche nei bar e qualche giovanotto che insomma che magari, nei bar infatti tu ne sai qualcosa, grande frequentatore di bar, ne ho trovati tanti anche ultimamente in quartieri popolari, il fascista che esce fuori, ma neanche vecchissimo poi, figli di fascisti col nome Benito, cioè ci sono. Sì, vabbè, quelli mi sembrano più vittime, ma quelli secondo me il futurismo non sanno neanche cos'è, era faccenda appunto molto limitrofa, marginale, di sopravvivenza appunto, però ebbe questo guizzo quasi conclusivo del movimento, quella dell'aero arte, e Vivenza si rifà proprio a questo periodo, ci fu una serie di aeropitture decisamente interessanti e anche di performance, una pazzoide di Marinetti su un aereo con altoparlanti che rimandavano il suono attraverso la stazione invece terrestre. orchestre, cioè veramente una cosa pazzoide. Peccato che non esista una registrazione, anche perché era impossibile probabilmente registrare una cosa di questo tipo. Vivenza si rifà un po' a quella faccenda. In effetti proprio l'album che andiamo a mettere, da cui trattiamo, Simultani Ararien, è proprio dedicato a aerobrutismo dinamico futurista, aerobrutismo dinamique, appunto Vivenza, per continuare questa arte di rumore. Sì, e a questo punto avvertiamo già gli ascoltatori, alla fine del brano scatterà come al solito il GR di Radio Popolare Neto, che noi rientreremo nella seconda parte affrontando più le dinamiche più, diciamo, di autori nell'ambito del rumore, più vicine al rumorismo degli anni zero e a varie diramazioni più appunto recenti in termini di periodo storico. Ovviamente dopo il GR ci risentiamo, intanto Vivenza o Vivenza? Vivenza, hai ragione tu. Vivenza. Comunque anche lui è abbastanza recente, tutto sommato, è ancora attivo. Per cui lo facciamo da collegamento. 1996, aerobrutismo futurista. Yeah.